RadioTube Social Network. Ed eccoci insieme per la seconda ora del nostro RadioTube. Abbandoniamo il Social Village e apriamo il Social Network. 349-238-6666, il numero per i vostri SMS, per i vostri WhatsApp. Grazie a chi ha scritto per Marco Masini. Sono arrivati appena dopo i messaggi. Persona buona, vera, sincera, umile, dissimile dal resto del contesto. Un abbraccio, leva solleva in paccio, Ludovico da Taranto. Grazie Ludovico. Beh, insomma, è veramente una persona deliziosa, Marco Masini. Poi avete sentito l'irresistibile Piero Maranghi, ma adesso in studio ci ha raggiunto per questa seconda ora di RadioTube. Allora, io sono una sua grande fan, una grande fan della rivista che si è inventato, che è Rivista Studio. Buonasera, buon pomeriggio. Aspettate, mi volto a vedere se c'è ancora il sole. Sì, c'è ancora il sole, quindi diciamo buon pomeriggio a Federico Sarica. Ciao Federico. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, Federico, abbiamo un po' di notizie della rete, dalla rete da commentare. Questo sabato io ho citato Rivista Studio, voglio citare anche 11, che è l'altra rivista, perché certo, parleremo anche di calcio. Ieri sera ho visto la partita per prepararmi. Parleremo bene anche di calcio, ma non bene subito. Attualità della rete e dalla rete, anche questa settimana di grande attualità ci sono gli haters, e io comincerei così. Mi riferisco a tutti i messaggi che sono arrivati alla mia compagna Francesca Barra riguardo alla nostra relazione. Messaggi minatori, messaggi offensivi, messaggi pieni di minacce, minacce di morte a lei, a me e soprattutto, cosa che ritengo gravissima, ai suoi figli. Queste persone devono essere perseguite dalla legge e a queste persone deve essere tolta la possibilità di esprimere la loro opinione pubblicamente attraverso i social network. Devono essere interdetti da qualsiasi social network perché hanno perso questo diritto. Allora, prima di commentare con te, Federico, io ascolterei anche quello che ha detto Fiorello. Lo ha detto su Facebook, su Instagram, io l'ho visto su Instagram, eccolo qua. Ragazzi, io lo voglio bene, ma ancora date retta agli haters, ancora dico io, cioè dando retta agli haters e scrivendo e dicendo perché loro odiosi mi hanno minacciato di morte, non fate altro che dare attenzione a delle teste di cazzo. Ok, i social in generale è un coacervo di personalità, di brave persone, di pezzi di merda, di pazzi, di tutto, cioè di tutto. Quindi bisogna, se ci volete stare, bisogna convivere anche con gli insulti, ma non rispondendo, lasciandoli stare e lasciandoli cuocere sul loro brodo, da soli. Quando si arrabbia, Fiorello, le parolacce non le risparmia. Allora, la vicenda di Claudio Santamaria, di queste minacce in rete assolutamente scriteriate. Federico, tu cosa ne pensi? Beh, insomma, siamo sicuramente, è comprensibile quel tipo di reazione da parte sua, perché voglio dire, abbiamo veramente oltrepassato i limiti. Il problema è vasto, è globale, tu lo conosci bene, ed è un problema, insomma, che è difficile esaurire in una polemica. Detto questo, mi sembra che Fiorello su questi temi faccia cassazione, nel senso è vero. A un certo punto il problema del discorso della persona pubblica in un'arena come quella, dove in più c'è l'anonimato rispetto a prima, è purtroppo un side effect di quello che si è, molto molto spiacevole, quindi assolutamente da condannare. Detto questo, esiste, sai, la questione di vietare come vieti. C'è anche da dire che io mi pongo anche la domanda: ma come ti viene in mente di insultare Francesca Barra perché si è messa con Claudio Santamaria? Ma saranno fatti loro, cioè nella mia vita non sposta un filo di equilibrio. Sì, sottolineiamo sempre che quando succedono queste cose qui è sempre la donna quella attaccata. Ah, ma certo, certo, perché quindi lei che ha i figli, lei che aveva il marito, lui invece... Vabbè, hai ragione. Federico, mi viene subito in mente un personaggio così che ormai citiamo spesso a RadioTube, lo facciamo anche l'anno scorso. Salutiamo a questo proposito Daniele Bellasio. E come no? Perché Daniele la scorsa settimana mi ha mandato una WhatsApp prima dell'inizio della trasmissione dicendo: non mi volete più bene. Vabbè, gelosissimo. Allora, è sempre nei nostri cuori. Ciao Daniele. Allora, un personaggio che con Daniele abbiamo sempre citato moltissimo: Napalm 51. Fazio Fabio, Fabio, no, Fazio, no. Fazio Frocio, Frocio. No, noi, cosa sta facendo Napalm 51? Ce l'ho con chi sta distruggendo tutti i pesci del pianeta. Ma chi, Fazio? Non ha visto che la rete ce l'ha a morte con Fabio Fazio perché ammazza tutti i pesci? Ma Fazio, ma ha solo messo un acquario nel suo programma, ma legga bene la notizia, perché... Regola numero uno. Cosa? Mai approfondire una notizia. No, invece... Bisogna leggere solo la parola chiave. Ma no, è meglio... Per esempio, tu vedi Boldrini... Ecco, ti serve qualcos'altro? Sì, bisogna... La mano deve essere più veloce del pensiero. No, deve stare fermo. Io neanche arrivo a Bold, che le mie dita hanno già digitato vacca. Beh, fantastico. Allora, Federico, tu avevi già previsto tutte le polemiche che innanzitutto riguardavano, adesso questa dell'acquario, che è veramente, secondo me, oltre ogni immaginazione, quelle dei compensi, perché tu nell'ultimo numero di Rivista Studio hai non solo intervistato Fabio Fazio, gli hai dedicato una delle due copertine, Fazio, esatto. Bret Easton Ellis, e proprio gli chiedevi l'invidia, ma secondo lei gli chiedevi, non c'entra un po' il fatto che l'invidia sociale e la frustrazione siano sentimenti attorno a cui il discorso pubblico ruota sempre più spesso, l'assunto per cui se una persona ha successo di sicuro non la conta giusta. Siamo sempre qua. Purtroppo siamo sempre più qua. Io ho fatto a Fazio quella domanda, che poi lui in realtà ha risposto dicendo che secondo lui è più un problema di noi addetti ai lavori di circo mediatico che di persone. Ah, lì era più... Perché lui dice in realtà le persone... Io non sento tutto quest'odio quando sono in bicicletta per strada. Credo che sia vero, però appunto stare sui social con l'anonimato e stare con la bicicletta su strada, le reazioni, come sappiamo, sono diverse. Magari le stesse persone che ti hanno scritto io credo, ti incontrano e sono diverse. Io credo che invece sia parte, la grossa parte di questo problema che stiamo vivendo. Cioè c'è un problema sicuramente di invidia sociale, di frustrazione, che lo scenario in questo momento di comunicazione social favorisce a livello di sfogo, tant'è che poi lo stesso Fazio, che qui in realtà appunto rispondeva alla domanda in maniera, diciamo così, più ecumenica, più alla Fazio. Com'è stato alla Fazio incontrare Fazio? Poi in realtà dopo dice e fa un discorso sul denaro molto giusto, che secondo me c'entra in questo discorso, che dice il problema è che in un momento di crisi economica il paradosso è che ormai il denaro misura solo il privilegio e non più il merito e le cose, certo, che hai fatto. Allora, questa cosa qui secondo me sembra un discorso altissimo, in realtà secondo me è uno dei grandi problemi a cui siamo di fronte a livello mediatico. L'hai trovato diplomatico, faziesco, incontrandolo? Devo dire che l'ho trovato meno faziesco di come lo fanno tutti, cioè l'ho trovato invece una persona con delle idee ben precise, è appassionato di quello che fa, è in grado di raccontare quello che ha fatto e quello che vuole fare, per cui oggettivamente è stata un'intervista interessante, voglio dire, un personaggio così al centro dell'attenzione mediatica, delle polemiche, tutto, è comunque interessante da intervistare. Dicevi della frustrazione, a me dispiace molto, nel senso che io capisco la frustrazione. Anch'io mi sento un po' frustrata quando vedo certi stipendi, sento parlare di certi stipendi, dico perché no? Però certo che è difficilmente gestibile in questo periodo, perché davvero sui social... È difficile da gestire. Io credo, appunto, torniamo a Fiorello, alla fine il buon senso debba essere quello, cioè sai che lì ci sono tutti e molti non si palesano e quindi ognuno si sente autorizzato a dire quello. Ma io non credo che sia un problema nuovo, come ci siamo detti tante volte, credo che semplicemente... L'ambiente social amplifichi tutto e quindi amplifichi anche questo tipo di cose molto spiacevoli. Però è un mezzo nuovo per un problema abituale, eterno, un po' come le fake news. Sì, voglio dire, non è che di questa cosa di Santa Maria della Barra si sarebbe parlato in termini non offensivi al bar 20 anni fa. Certo. O di Fabio Fazio, certo, per dire, certo. Se qualcuno ce l'ha coi compensi di Fabio Fazio, quindi non è che... Quindi secondo me... Se c'è una cosa, forse qui faccio un po' di mea culpa come categoria nostra giornalistica, e noi tendenzialmente riamplifichiamo delle cose che probabilmente dovrebbero fermarsi lì. Allora, per quello aspetta, dico Fiorello aspetta, fa cassazione. Ti provoco su questa cosa, perché nel tuo editoriale di Rivista Studio dell'ultimo numero, siccome la gente, ti leggo, non ha più tempo, ha voglia solo di distrarsi e di cercare tutto velocemente su Google, perciò mi raccomando, facciamo il titolo che sembra una ricerca veloce di Google, così cliccano e ci cascano. Allora, ci permettete di sollevare qualche perplessità, non per spirito nostalgico, per credo luddista, anzi proprio perché passiamo gran parte del nostro tempo felicemente incollati agli schermi dei nostri smartphone, il dubbio che ci assale mentre prepariamo l'ennesima trappola per l'utente distratto è che forse fare i furbi alla lunga non paghi. Quindi i giornalisti un po' fanno i furbi in questo periodo. Facciamo un momento di autocritica. Sì, devo dirti, in questo tirerei in mezzo gli amici editori anche, oltre che i giornalisti. Nel senso che, voglio dire, è un po' tutto, secondo me, lì quello che voglio dire io lì, veramente senza spirito luddista, perché poi in realtà io sono un entusiasta ai confini dell'ingenuità verso le nuove tecnologie e l'innovazione, quindi non ho mai avuto... Devo dire che però oggettivamente credo che la risposta di... Cioè io ho dei dubbi che il clickbaiting, quindi la ricerca spasmodica di clicca sul mio articolo, sia la ricetta giusta per un settore in crisi. Quindi non penso che fare i furbi sia una risposta matura quando c'è un problema, anche perché spesso e volentieri poi quei lettori equivalgono. Allora, se consideriamo lettori quelli, consideriamo lettori anche quelli che leggono un banner pubblicitario per strada. Certo, però certo è che se noi condanniamo gli insulti a Francesca Barra e a Claudio Santamaria, però se ci mettiamo il video in home page e lo clicchiamo... Lo so, però torno per la quarta volta a Fiorello in un quarto d'ora. L'avviso di Fiorello vale per... le persone pubbliche che hanno un profilo pubblico, ma secondo me vale anche per chi fa il nostro lavoro. È veramente detto senza nessun afflato moralistico, eh. C'è proprio una questione di che senso ha rilanciare cose che a loro volta sono state rilanciate, cioè c'è una questione. Poi voglio dire, noi avremmo la possibilità invece in questo momento di fare un lavoro necessario, che è quello di chiarire le cose, selezionarle, spiegarle. Cioè, paradossalmente, secondo me è uno scenario che dovrebbe avvantaggiare chi fa il nostro lavoro, cioè dare le notizie, spiegarle, raccontare i personaggi, selezionare le cose di cui vale la pena parlare. Appunto perché il mare si è allargato, ci sarebbe più bisogno di tendenzialmente marinai, invece siamo qui a fare... Bella, mi piace, il mare si è allargato, ci sarebbe più bisogno di marinai, te la riuso Federico. Allora sono le 17:17:17, qualcosa vorrà dire, non so che cosa, ma alle 17:17:17 diamo la linea con un po' di ritardo, mi scuso con il collega che sta per fare la viabilità, ascoltiamo come va su strade e autostrade e poi parliamo di un personaggio che improvvisamente è diventato sicuramente suo malgrado personaggio pubblico questa settimana. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Radio Tube Social Network. Allora, chi scrive? Che fine ha fatto Daniele Bellasio? Daniele Bellasio in questo periodo ha scelto un'altra strada professionale, ha preso la via di Roma, adesso è a Roma, ragazzi, però gli vogliamo sempre un sacco di bene e quindi non abbiamo litigato. E poi, caro Federico Sarica, che è accanto a me per questa puntata di Radio Tube Social Network, Federico, c'è... al 349-238-6666 qualcuno che scrive un sms e dice: e dopo questa giustificazione dello stipendio di Fazio spengo la radio, non meritate il mio ascolto. Abbiamo giustificato lo stipendio di Fazio. Vedi, a proposito dei discorsi che facevamo prima, cioè senza accorgercene abbiamo parlato dello stipendio di Fazio. Capisci? Capisci che la radio è come la rete. allora questa settimana secondo me il personaggio sicuramente suo malgrado è diventato più famoso in rete in Italia questa settimana. Tanto avete già capito che stiamo per parlare di Katia, eccola qua. Benvenuta alla filiale retail di Castiglione delle Stiviere, filiale hub di 9 risorse. Io sono Katia Ghirardi, la direttrice. Adesso vi presento la mia squadra, anzi... la nostra famiglia, anzi, la nostra grande famiglia, perché ospitiamo anche la filiale personal. Mi approfitto per fare un saluto a Fabio, che ha avuto un problema di salute. Ciao Fabio, ti aspettiamo. Questa è la nostra piazza, qui è il centro di tutto, perché noi la filiale la interpretiamo così, anzi, la viviamo così, insieme al cliente, perché noi ci crediamo, io ci sto. Ci metto la faccia, ci metto la testa e ci metto il mio cuore. E voi? Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. Io ci sto. ci metto la faccia. Posso cominciare a parlare perché c'ho un momento di friend shaming, cioè proprio mi imbarazzo per lei. Io sono una grande tifosa, vorrei andare a Castiglione del Stiviere a aprire un conto in banca perché io voglio bene alla povera Katia Ghirardi alla quale è successo tutto questo. Io non so tu, sì, Federico, ma io oggettivamente non si può non volerle bene. Non si può non voler bene a Katia. Se per caso ci stesse seguendo, Katia, noi ti vogliamo un sacco di bene. Cosa tieni c'è? Duro. Tieni duro, Katia. Cosa c'è dietro un balletto aziendale trash? Questo è il titolo di un pezzo sicuramente molto molto interessante. È quello che a me è piaciuto di più questa settimana per parlare di quello che è successo a Katia Ghirardi, cioè lei ha girato questo video che doveva rimanere interno per un'operazione interna alla banca, è uscito. Insomma, cosa c'è dietro a un balletto aziendale trash? È il titolo di questo pezzo che è uscito sul Post, firmato da Enrico Sola, noto in rete anche come Suzuki Maruti, e noi l'abbiamo al telefono con noi. Ciao Enrico! Ciao a tutti! Allora, Enrico, che reazione hai avuto dopo questo tuo post in cui tu spiegavi che cosa c'era dietro questo servizio? Beh, è un post che è circolato molto e sono stato intercettato da un sacco di dipendenti di grandi aziende che hanno inondato la mia casella dicendomi anch'io è successo qualcosa di simile anche a me. E, oh mio Dio, mi hai ricordato una carriera. Aspetta Enrico, ti sentiamo pochino, aspetta, vediamo mi sentite? Adesso ti sentiamo meglio, sì. Perfetto. Dicevo, mi hanno scritto tantissimi dipendenti di grandi aziende, ricordando con dispiacere le loro convention aziendali, gli episodi imbarazzanti. Ah. Pare abbia aperto una sorta di vaso di Pandora dell'imbarazzo. Ah, praticamente ti hanno scritto per dire grazie di aver spiegato quello che succede. Adesso non immagino che non tutti abbiano queste esperienze negative. Però forse allora bisogna un po' capire che le cose imbarazzanti si possono fare, però Enrico, forse in rete non rimangono riservate. Eh beh no, nel 2017 se ti riprendono in video e ti dicono tranquillo, resta qui nel cassetto, non ti fidare, bisogna sviluppare nuove cautele, questo vale per tutti, perfino per chi si riprende mentre fa sesso, scusate se tocco un tabù di quelli forti, stiamo attenti perché è tutto un click. Esatto, quindi sì. Che rimanga riservato non è una cosa facile. Abbiamo in linea anche un collega del Sole 24 Ore che è Marco Loconte. Marco, ci sei? Ciao Marta, buonasera. Marco, ciao. Tu che insomma frequenti questi ambienti non solo della rete ma anche delle aziende, anche delle banche, ti ha stupito questo video? Posso dir di no, che non mi ha stupito, no, nel senso che frequentando io soprattutto in passato, adesso come social media editor del Sole frequento soprattutto la timeline non solo del Sole oltre che la mia ma di molte altre persone, ma avendo seguito molto i temi di finanza personale sono stato testimone di balletti in cui i direttori generali e i direttori commerciali delle grandi banche si producevano come drag queen in convention aziendali in giro per il mondo, però tutto rimaneva assolutamente, diciamo, all'interno di un alveo di riservatezza perché c'era un fotografo ufficiale, un cameraman ufficiale, perché i cellulari si tengono in tasca, soprattutto in passato quando c'era meno viralità di rete, quindi era tutto molto più tranquillo, ma da qualche parte ci sono quelle foto e chi lo sa se vengono utilizzati come deterrente in certi momenti. Per ricattare qualcuno, lo dico allora, ridendo, ci sono delle armi allora in mano a qualcuno. Allora, diciamo così Marta, che se volessimo fare gli accigliati censori della comunicazione, potremmo dire che in questo caso la comunicazione non è stata organizzata bene perché mancava una definizione del codice, del target, del linguaggio, della modalità con cui produrre e far divulgare questo tipo di comunicazione. Perché ci vuole un po' di professionismo anche a gestire queste cose e soprattutto all'interno di istituzioni finanziarie che maneggiano molti soldi, ebbene il professionismo non è esattamente una commodity, qualcosa di estremamente importante anche e soprattutto nella comunicazione. Poi Katia Ghirardi, una di noi assolutamente, anche Fabio uno di noi, cioè, allora aspetta Marco, allora vi faccio sentire, se non l'avete ancora vista, è altissima nelle tendenze in Italia di YouTube, non è la più alta, ci sono svariati video di parodia, ma questo è il mio preferito, quello dei Pantellas. Allora la parodia dei Pantellas ce l'abbiamo, eccola qua. Benvenuti alla filiale retail di Castiglione delle Stiviere. Ah, ma io sono un loro cliente. Che culo. Adesso vi presento la mia squadra. Ma chi cazzo se ne frega? Mi approfitto per fare un saluto a Fabio, che ha avuto un problema di salute. Ciao Fabio, ti aspettiamo. Bravo Fabio! Eroe nazionale! Stai a casa tua che è meglio, credimi. Adesso vi presento la mia squadra. Anzi, si presentano. Ciao, sono Roberto. Cosa? Ciao, sono Roberto. È fantastico, ancora! Ciao, sono Roberto. Ti amo, Roby! Lo voglio sul comodino. Ciao, sono Emanuela. Ciao, sono Matteo. Ciao, sono Antonella. Ciao, sono Domenico. Ciao, sono Roberta. Ma è una terapia di gruppo. Ciao, io sono Jacopo e non bevo da 2 mesi. Perché noi ci crediamo, io ci sto! Con la testa mica tanto. Vabbè, questi sono i Pantellas che io adoro. Volevo chiedere a Enrico Sola, che non solo scrive appunto sul post, sul suo blog Suzuki Maruti, ma si occupa anche di pubblicità, quanto serve la formazione ai pubblicitari e alle aziende? Cioè quanto devono entrare anche loro nel 2017? Beh, tantissimo, anzi è addirittura un caso di risocializzazione, perché più lavori chiuso nel tuo ufficio, più ti stacchi e alieni dal mondo e spesso perdi dei treni, non sai che cosa è successo, non ti sai adeguare. La formazione serve tantissimo, pensate a questi poveri impiegati di banca, a cui va ovviamente tutta la nostra solidarietà, siamo tutti cati ormai al coro. Anche Enrico, se qualcuno gli avesse detto attenzione, non fate troppo i disinvolti di fronte a una telecamera, perché state rischiando grosso e ci mettete la faccia, davvero, per me che la mettete a livello globale, probabilmente avremmo qualcuno che si è umiliato un po' meno pubblicamente, e forse anche delle banche che sono un po' più affidabili viste attraverso le singole persone. Da correntista mi sarei molto confortato dall'avere una direttrice di banca che sa usare internet e sa quando non comparire su internet. Hai ragione. Comunque, a Katia vogliamo bene. Grazie Enrico Sola. Il post, ma soprattutto seguite Suzuki Maruti, così lo trovate subito. Grazie Enrico, ciao. Ciao. E Marco, allora, Marco Lo Conte, tu come le trovi, visto che appunto le frequenti un pochino di più, e le hai anche frequentate nel passato un pochino più di noi, le banche, gli istituti bancari? Ma guarda, proprio ora mi veniva in mente un direttore di una rete di promotori finanziari che è molto conosciuto, molto bravo, ma ha un forte protagonismo proprio sulla rete, e questo ai suoi agenti non è che piaccia tanto. E anche lì bisogna saperla usare, la comunicazione non è una roba da tutti, bisogna sapere chi è l'emittente, che cosa stai comunicando, se tu sei l'oggetto della comunicazione o il soggetto della comunicazione, se sei quello che dice qualcosa o sei la cosa che viene detta, è molto diverso. E per questo dico, cioè, del professionismo, nel calcio così come nella canzone, così come nella comunicazione, bisogna avere delle idee abbastanza chiare su come gestire la situazione. Poi la comunicazione funziona quando divide, no? Quando ci sono gli haters. Ah, dove c'è questo caso, come vedi? E quando ci sono, io vorrei però mettere nel circuito, oltre il cyberbullismo, il virus del cyberbuonismo. Perché Katia, una di noi deve essere dai. Ma secondo me, perché prima tutti l'hanno presa in giro e poi noi persone di buon cuore abbiamo detto, no Federico, poi abbiamo l'abbiamo adottata. Marco, ma quello che dicevate prima di Fabio, Fazio, secondo me è questo. Allora tu incontri Fabio, cioè chi l'hater di Fabio Fazio che lo prende in giro sulla rete, poi lo incontra sul tram e gli chiede l'autografo. Certo. E quindi la realtà va ben oltre il Napalm 51. Napalm 51, si vede Fazio e si emoziona, gli si asciuga la salivazione. E poi incontra Marta Cagnola, proprio sviene. Quello poco ma sicuro, ma perché mi riconosce dalla radio. Marco, grazie per essere stato con noi. Tu hai detto calcio e tra poco parleremo proprio di calcio. Grazie Marco Lo Conte, ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Poi Marco verrà presto a trovarci in studio. Federico, facciamo una brevissima pausa e poi c'è già un ospite di là dal vetro che sta per entrare in studio. Tra pochissimo scoprirete chi è. Molto tra poco. Bene. Radio Tube Social Network. Sempre sempre piena di ospiti la nostra Radio Tube il sabato pomeriggio. Siamo nella seconda ora, sento degli strani rumori ma adesso non li sento più. La seconda ora è quella di Radio Tube Social Network, un po' di attualità della rete e dalla rete, questo pomeriggio in compagnia di Federico Sarica. Ancora ciao Federico. Ciao a tutti. Allora, direttore di Rivista Studio, che è una rivista secondo me una delle più belle in cui immergersi. Grazie, nella lettura. Troppa grazie. Ma lo sai che sono una fan. Però tra i tuoi bambini, sì, tra le tue creature, c'è anche Rivista 11, che l'avevamo festeggiata anche quando nacque, perché è una rivista di calcio, anche di altri sport, ogni due mesi in edicola. E quindi dopo questo spottone, al quale però io tengo molto, perché Rivista 11 è molto chic. Grazie e mi piace molto come racconto del calcio. Ci tocca parlare di sport, caro Federico. Ma guarda, cosa hai fatto ieri sera? Non potresti farmi più contento che parlare di calcio. Perché poi alla fine i giornalisti che anche si occupano d'altro, i maschi alla fine quasi sempre vogliono occuparsi anche di calcio. Quindi cosa hai fatto ieri sera, Federico? Ti dirò la verità, non ho visto la nazionale. Non hai visto la nazionale. Perché no, non hai visto la nazionale? Avevo un impegno precedentemente preso. E poi chissà, forse avevo annusato l'aria. Allora, tu l'avevi annusata? Il CT Ventura, secondo me, all'inizio, prima, non l'aveva annusata. Eccolo qua. Cosa succede se nel caso non c'è la vittoria contro la Macedonia? Sei pronto a dare le dimissioni, eventualmente? Questa gliel'hanno consigliata. Questa gliel'hanno... Non può venire dalla Macedonia, è evidente che gliel'hanno consigliata. Vedi, noi siamo già qualificati per i play-off. Quindi, ripeto, con due giornate di anticipo siamo già qualificati ai play-off. Quindi andiamo a fare i play-off. Forse lui non lo sa questo, quindi è rimasto fuori un po' dal mercato, ma adesso basta spiegarglielo. E cos'è successo dopo la partita? Un'altra intervista, eccola qua. L'ultima, oggi è più preoccupato di non andare al mondiale dopo questa partita. Me lo continuate a ripetere alla seconda di campionato. Io mi ricordo che quando abbiamo giocato con la Macedonia mi hai detto esattamente... No, non c'ero in Macedonia. Qualcuno mi ha chiesto se avevo avuto paura di essere allontanato dopo la partita. Sì, proprio nella conferenza post partita. E siamo a ripetere sempre le stesse cose. Io credo che dovremmo provare a recuperare tutti i giocatori, provare di fare un po' di calcio serio e vedere di poter centrare l'obiettivo. Credo che sia la cosa più importante. Ragazzi, cosa dobbiamo dire di questo pareggio? 1-1, la Gazzetta dello Sport che ho davanti dice desolante. L'ha vista ieri sera Marco Bellinazzo, voce dello sport del Sole 24 Ore, Radio 24. Marco, l'hai vista ieri sera? No, mangiavo del sushi. Anche tu già... Sai, io sai che non ti ho mai visto con l'aria così sconsolata, Marco. Ma devo dire che più che la sconfitta con la Spagna, già la partita precedente con Israele vinta con uno streaming sito 1-0, che era stato quasi celebrato, no? Come comunque un mezzo trionfo, perché ci permetteva comunque di essere un piede dentro i playoff, non con due piedi, e non ci siamo ancora, al di là di quello che Ventura sapeva, perché credo che sia un po' confuso il CT su tante questioni. E quindi questo effettivamente ha tolto entusiasmo ai giocatori, ma anche agli spettatori. Io non so, per esempio, quale sia stata l'audience della partita, sarei molto curioso di andarla a vado a recuperare, così vi cito i numeri per bene. C'è della disillusione, della delusione, perché appunto già voi due, uno aveva un impegno, l'altro ha mangiato il sushi. Allora, sai, chi segue tanto il calcio, poi quando c'è la pausa del campionato tendenzialmente tira un po' in banca. È un po' svegliamo. No, però è giustissima l'ultima cosa che ha detto Marco, cioè è proprio il ruolo, un CT cosa deve fare? Far giocare bene la squadra, farla qualificare ai mondiali, ma anche coinvolgere il gruppo che ha poco a disposizione, coinvolgere le tifoserie, coinvolgere gli italiani, creare un clima attorno alla nazionale che sia, insomma, un clima da nazionale, da squadra nazionale. Credo che questo sia successo pochissimo con Ventura. Non lo so, a livello tecnico non esprimo giudizi, non so se è qualificato o meno. Non mi sembra il personaggio esatto più da questo punto di vista qui, cioè di trascinare adesso non voglio esagerare, però trascinare un paese e la sua squadra verso un obiettivo che tendenzialmente noi abbiamo quasi sempre centrato. Sì, io non voglio neanche immaginarmelo. Allora, la partita è andata bene, 29,6% di share, 7.469.000 spettatori su Rai 1, su Canale 5 c'era forte Il Segreto che ha preso l'11,8%, mentre prima ascoltavamo Crozza che a me è sembrato sempre, a me piace sempre tanto, ma ha fatto il 3%. Sì, ti tieni conto però che le partite top della nazionale, e questa lo era perché dovevamo qualificarci, di solito fanno tra il 10 e 12 milioni, sì, insomma, sì, sono, hanno questa base. Quindi effettivamente anche negli spettatori c'è un po' di disillusione. Sai, noi veniamo da due mondiali in cui siamo usciti miseramente ai gironi iniziali, quindi non abbiamo più giocato quelle partite come gli ottavi, quarti di finale che emozionano e trascinano un intero paese e restano nella storia. Poi quanti film, quanti libri si scrivono intorno a quelle partite, ecco, noi lì non ci arriviamo. Non so se un giovane scrittore volesse scrivere l'epica della nazionale, dovrebbe appunto andare molto indietro nel tempo. Ecco, a questo proposito, ragazzi, noi parliamo tanto di rete, ma parliamo anche di televisione, parliamo anche un po', ovviamente, inevitabilmente, di quello che passa attraverso la stampa, ma il racconto oggi del calcio, Federico, privo un po' di questa magia, di questa epica, come si può fare? Ma io su questo sono positivo, credo che sia molto migliorato, soprattutto parlo in Italia, il racconto del calcio. Ci siano una serie di nuovi giornalisti, nuovi e meno nuovi, una serie di interpreti, anche una serie di media che hanno fatto un passo in avanti, a mio avviso, notevole. La persona con cui ci siamo inventati 11, che poi è quello che ha avuto l'idea, che è Giuseppe De Bellis, diceva sempre: io questa idea qua io vorrei riuscire a mettere insieme i due aspetti, secondo me, in questo momento più rilevanti del racconto del calcio, che sono l'epica e la scienza. Quindi tutto il racconto dei numeri e tutto il racconto invece emozionale, perché in questo momento, se li teniamo insieme e di pari passo, possiamo elevare, diciamo così, il livello del racconto, anche perché quando tu sei tantissimo appassionato di una cosa vuoi sempre di più. E quindi allora, in questo modo si convive con la rete, con l'immediatezza della rete, con sì, le dirette di tutti i tipi, con i commenti sui social network. Io credo non sia una questione di mezzi, di dove, la rete, i social, i siti, la carta, i libri, i festival, va bene tutto. Il problema è la qualità, secondo me, del racconto. E le nuove generazioni sono molto, molto più di noi, ad esempio della mia, molto più legati ai numeri dello sport, sì, da tutti i punti di vista. Ma andrà bene a Bellinazzo, che ne scrive tanto? Beh, io in questo senso posso essere testimone, insomma, di una notizia data in rete e che di fatto poi ha anche in qualche modo segnata la mia carriera professionale, perché io ricordo, mi capita spesso, insomma, poi di raccontarlo, soprattutto ai giovani, a chi mi segue, insomma, nei tanti incontri che faccio. Quando... Sai in quanti ti chiedono come faccio a diventare Marco Bellinazzo da grande? Sì, diciamo che la cosa mi imbarazza anche un po' quando mi dicono che vogliono essere me. Io, insomma, non sono assolutamente sicuro di voler essere me tuttora, quindi figurati come puoi imbarazzarmi. Però dicevo, quando ci fu l'offerta di Toir, la prima offerta, certo, di Toir all'Inter, io ricordo ancora che faticavo, per esempio, a trovare spazio sul cartaceo, e allora scrissi sul mio blog. Come dire, programmai per l'indomani, quando ero certo, insomma, di quello che mi avevano raccontato, perché sai, sono sempre questioni da prendere in maniera un po' particolare. E mi ricordo ancora, l'avevo programmato intorno alle 7, la mattina dopo avevo l'iPad a casa che continuava, presa a cinguettare dalle 7, ma ininterrottamente. Io mi alzai, avevo già dimenticato quello che avevo scritto la sera prima e pensavo si fosse rotto, ci fosse un problema. Invece improvvisamente scoprì che in tutto il mondo stavano twittando questa notizia, c'erano dei tweet in arabo, in cirillico. Io non, chiaramente l'unica cosa che distinguevo in quel caso era il mio nome e il sole e l'Inter. Però ecco, quella roba là mi ha scosso, perché è stato il segno di come il calcio fosse internazionale, di come certe notizie non avessero assolutamente confini. Quindi l'Inter, l'offerta di un indonesiano per l'Inter ritweetata in tutto il mondo, partendo dal blog e quindi dalla rete, e la cosa poi è continuata nei giorni successivi. E ricordo che mi arrivavano, per esempio, messaggi, non so, da alcuni ragazzi interisti che erano in Argentina, che seguivano tutta questa vicenda sul mio blog. E questo chiaramente, per chi era abituato alla carta, al giornale, cioè, no? Ormai il tuo account di Twitter viene seguito come se fosse un'agenzia di stampa dagli appassionati. Beh, dai credo di sì, sì. Posso testimoniarlo. Devo dire che in quest'ottica, diciamo, in quegli anni, quando io ho cominciato a raccontare l'economia e la finanza del calcio, non lo faceva nessuno. In Inghilterra, negli Stati Uniti, c'era una certa tradizione del racconto economico legato allo sport, anche al calcio in Inghilterra, ma in Italia, come dire, ci si occupava di piccoli aspetti, non so, bilanci delle società, piuttosto che magari qualche sponsorizzazione, ma o il calciomercato. E poi però questa è una favola a lieto fine, perché alla fine anche il cartaceo ha dato spazio. Bambini, questa favola finisce bene. E vissero tutti felici e contenti. Vorrei dare un appuntamento, perché gli appassionati di calcio sono tanti. I festival del calcio in questi giorni a Firenze, è vero? Sì. 11 sarà live lunedì, e ci sei anche tu, Marco Villinazzo. Sì, torno a Firenze, peraltro. Noi non abbiamo problemi a citare la concorrenza, no? No, ma noi siamo proprio sopra, allora, al di sopra. Sempre per testimoniare il rapporto tra calcio e rete, mi è capitato domenica scorsa di essere dal Wired Next Festival a Firenze, certo, un evento certo. Bellissimo. Sì. E venivano trasmessi, diciamo, i live dei vari eventi. L'evento che mi ha riguardato, ma non perché ci fossi io naturalmente, c'era Pierluigi Pardo, c'era Marco Fassone, soprattutto amministratore delegato del Milan, è stato l'evento più visto su Facebook, con 90.000 visioni. Ora tecnicamente ho problemi a distinguere i vari fee che ricevi dalla rete, ma certo, comunque certo. È stato visto da 400.000 persone e 90.000 hanno seguito per intero tutta la mezz'ora di chiacchierata, però quattro volte tanto quelli relativi agli eventi, diciamo, diversi dal calcio, che erano assolutamente di qualità, bellissimi, sì. Però ma il calcio ha questo impatto incredibile. Allora, Marco, l'appuntamento lunedì per vederti in carne e ossa in 3D a Firenze. A Firenze parleremo appunto di calcio ed economia dentro questo bellissimo festival, e saremo ospiti di Rivista 11, che curerà il panel. Insieme al collega della Gazzetta dello Sport Marco Iaria parleremo di calcio globale, di calcio ed economia, e sarà anche un'occasione, insomma, per presentare, per raccontare i veri padroni del calcio, così mi autopromuovo in bravo, questo momento assolutamente bravo. Di egocentrismo puro. E in questo momento in cui sei calcisticamente molto contento, grazie a Marco Bellinazzo, Sole 24 ore. grazie 17.47, non diciamo niente, 17.47, sempre in ritardo oggi, ma abbiamo troppe cose interessanti. Viabilità, poi saremo ancora insieme per l'ultimo spicchietto di Radio Tube. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta Radio Tube Social Network. Ed eccoci agli ultimi minuti di questo Radio Tube, ed in particolare della seconda ora di Radio Tube Social Network. Federico Sarica, che è stato con me questo pomeriggio. Molto com'è volentieri. La radio? Com'è il tuo rapporto con la radio? Molto buono, mi piace molto. Uno dopo, diciamo che dopo la carta stampata, diciamo la forma scritta, mi interessa, mi piace. Allora, l'ascolto molto. Qualche settimana fa ho fatto uno scherzone a un amico che è Emilio Cozzi, che è venuto sì. anche lui. E a te non l'ho fatto, perché sì. non siamo così in confidenza, non sì. potevo tirare fuori i passati musicali. Sì. Ma anche tu c'hai un passato musicale, sì, però. Sì. Ah, sono ecco. stato. Devo dire ultimamente. Anche tu hai dei video virali, come sì, sì. Devo dire più degli audio che dei video. Degli audio, perché anche parliamo di decenni fa, purtroppo sì, per l'età sì, che ho. Sì. Ah, no, vabbè, tu più rap, però. Sì. Grandissimo. Grande Federico Sarica. Andate a curiosare in rete gli scheletri nell'armadio di Federico, perché è molto bravo. Ti voglio provocare su un argomento. Ascoltiamo quest'audio insieme. Quando ci ho pensato a loro tutti i giorni, a pianto per loro. Purtroppo, Costanzo, io ho un problema, non riesco a esternare la sofferenza che ho tramite le lacrime. E sto molto male. Me ne parli della sofferenza, dai. Vorrei tanto, anzi, prego sempre perché Dio mi conceda questo dono, che Dio mi conceda il dono di fare qualche lacrima per buttare fuori questo dolore. La rete, anzi fammi dire quella cosa brutta, il popolo della rete, il popolo del web, il popolo del web si è scatenato. Allora, quando la notizia che Pietro Maso sarebbe stato ospite dell'intervista di Maurizio Costanzo e alcuni frammenti di questa intervista sono stati diffusi proprio da Canale 5, cioè da Mediaset e da WIT TV, che è la piattaforma della fascino della produzione di Maurizio Costanzo e di Maria De Filippi, quando sono stati diffusi la notizia e i primi estratti, grandissime polemiche soprattutto sulla pagina Facebook di Maurizio, sì, Costanzo. Di tutto è stato detto. Che cosa si fa in questi casi? Secondo te Pietro Maso è da ospitare in TV? Bisogna dedicare l'intervista di Maurizio Costanzo a Pietro Maso? Tema veramente complicato, perché sai, poi lì entri nel diritto dovere di cronaca, come tu sai, per cui istintivamente e professionalmente mi verrebbe da dire sì, nel senso che c'è la notizia, c'è del personaggio, notizia, c'è una cosa di cui le persone vogliono sentir parlare. Questa cosa qui poi ovviamente è scivolosa, nel senso che secondo me andrebbe poi un po' capito dove quella discussione lì va a finire, perché comunque può essere, però tendenzialmente io dico di sì. Tu dici di sì, io dico forse un'intervista sì, però temo che lui... Non l'ho sentito e non l'ho seguita, temo... poi dipende, sì, molto dal, sì, contenuto. Beh, insomma, poi appunto diciamo che l'audio che abbiamo scelto era abbastanza, esatto, abbastanza chiaro. Temo il desiderio di lui diventare un personaggio televisivo, non credo che ne abbiamo bisogno. No, sono d'accordo con te. No, di questo non credo che ne abbiamo bisogno. Dai, però concludiamo con un sorriso. Concludiamo con un direttore che amiamo molto, Enrico Mentana, un collega delizioso che è Paolo Celata. È successo questo. Subito da Paolo Celata, che è in Piazza Catalunya, Plaza Catalunya. E Paolo Celata, come è stato accolto Paolo Celata? Paolo Celata sta rimorchiando una scena veramente terribile. Celata, puoi dedicarti anche a noi, per favore? Vabbè, fantastico. Beh, fatto, insomma, ovviamente ripreso da tutti. Voglio dire, quello che succede al 17, la famosa Maratona Mentana, ormai è una delle sitcom più seguite. Certo, hashtag Maratona Mentana su Twitter, tutti si con dei personaggi meravigliosi. Fantastico. Ovviamente Paolo Celata è andato ospite da Zoro, perché Zoro non se lo poteva risparmiare ed è andata così. Il rapporto è ottimo. Ottimo. Ottimo. Pensa in onda e poi. Esattamente. Brutto. E guarda, mi prendo un piccolo merito. Vai, prenditi tutti i meriti. Posso. Questa è la sera. Un po' l'ho sdoganato Mentana. Ma perché... diciamo, ma chi era Mentana? No. Diciamo. Era quello, diciamo, sempre serio. Allora. Che dà le notizie. Che dà le notizie. Che mitraglia, che. Ta, ta, ta, ta. No, invece con però, me ogni tanto c'è la pausa, no, nelle maratone. Sei rimasto qualcosa qua ogni tanto, là, stai lì a parlare, poi la conosco, quella, esatto, è una persona. Lasciamo perdere. Una volta stava lì nel momento più importante della sua militanza politica e lui ha detto, stai rimorchiando, no, vogliamo dire, allora. Sfogati, digli tutto quello che non hai detto in questi anni, tipo direttore, non lo so. Che stai a fare? Che stai, di più. Ma nemmeno una giornalista lì con te. È vero, bravo. Uno da intervistare. Sta, ma neanche proprio una persona, nessuno. Sei da solo. E niente, non ce la fa, volevo di più, niente, è irresistibile. Senti, secondo te questo cambiamento di rete a Zoro, tu l'hai visto sulla 7? Cioè, sì, l'ho visto. Sì, che cosa ti ha... Ma allora, a me continua a piacere quello che fanno, e chiaramente io non sono, diciamo così, lo spettatore medio, per cui il punto che mi faccio sempre io, la domanda che mi faccio sempre io sulle bellissime cose che fanno loro è... Piace al pubblico più largo e non a noi addetti un po' ai, esatto, lavori, poi, che ci occupiamo di comunicazione. Questa è sempre, insomma, scontata, ma è la grande domanda che mi faccio. Però oggettivamente si sono inventati un linguaggio, comunque l'hanno interpretato meglio e prima di altri. Per cui magari, sai, con la vocazione che ha la 7 di stare sul pezzo, diciamola così, potrebbe avere senso. Insomma, ho i miei dubbi su quanto questa cosa possa essere larga. Ci lasciamo con questo interrogativo, dobbiamo chiudere. Grazie a Federico Sarica. Grazie per essere a voi. Stato con noi. Torna Federico, torni quando volete. Dai, torna Federico da a noi presto. A RadioTube Social Network. Devo fare due ringraziamenti, come sempre, a Cristian Goldoni in redazione e oggi in regia c'era Valeria Bernardi. Grazie Valeria. Noi ci ritroviamo il prossimo sabato, sempre con le nostre due ore di RadioTube a partire dalle 16. A sabato prossimo!